Cioè, quello che ha fatto Mussolini, praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui, perché, avvocato? No, ma perché, avvocato Sinatra? Scusi, perché? Ho superato l'età per no, gli scherzi cretini e di cattivo lo faccio gusto. Stare zitto. Mi faccia parlare. Lo faccio stare non zitto. Non si permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Lo faccio capone, stare zitto. Ma qua, non so. Pronto, ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? La zanzara. Tutto il resto è gioia. Va bene, abbiamo finito di parlare. No, non ho detto gioia. Lo faccio capone, stare zitto. Ma qua, non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Siete di Varese? Di dove siete? E non vi affrontate. Una piotta e 10 così, terza marcia, non ci sono problemi, non ci sono problemi. Ho un amico a Gallipoli, con la faccia da Made in Italy. Non ci sono problemi. E a scanso di equivoci, quando parla scone i sottotitoli. Cosa? Arriva sempre in ritardo almeno di 2 ore, e dà la colpa al fuso orario del meridione. Hai curato a Gottardo, pezzo di merda. Coppola reminchia, ridatemi Gottardo, porca bottana. Ronne, o pacchione Ronne. Dov'è quel grassone di Gottardo? Come fanno non lo so, ma quella camicia aperta schiaccia il fascino del nord. Amo quanto mi ami, dillo a tutte mo, tutta la vita. Oggi torna così, regà, se vi siete salvati alla diretta siete miardari, fratellino. Fratellino, prendi il muro, fratelli. Perché sanno tutti che il terrone va di moda. Non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Vada fratelli, ho sfornato tutto fratelli. Ho sfornato tutto fratelli. Complimenti agli amici della zanzara. Sono Cruciani, buonasera. Buonasera. Allora, non ho capito cosa vuole da noi, mi spieghi bene. Io non voglio niente. No, lei ci ha rotto le balle. Ha telefonato per rompere le balle. Allora, ha telefonato per rompere le balle, chiaro? Sì, ha telefonato. No, certo. Perché voi avete rotto a me e rompete un sacco bravissima, di gente. Bravissima. E lei con la sua intelligenza, la sua cultura, mi meraviglio. Signora, che lei è una. Molte volte come si comporta. Brava, signora, questa Franca, è una trasmissione. Grazie. No, richiamate un po' questa vecchia. Richiamate un po'. No, stop! Ecco, la vecchia, come al solito, non ha capito un cacchio. Comunque, questa si stampa, va? Metti riserva. Buona la undicesima e ora ne facciamo un'altra, così la vecchia rimbambita impara a notare e che non faccia la deficiente, la buona vecchia. Ripescate la vecchia e asciugatela! E che si tuffi con più slancio. Signora Ceccarelli, ne facciamo un'altra! Non abbiamo bisogno di nuovi disinfettanti, non abbiamo bisogno di nuovi sistemi. Luci, lampade, ozoni, madonne. There's no more heroes left to believe in. They've pushed our backs against the wall. David, Natania, da Casa Parenzo. I know that something has to change. We got lost alone. Conte, dimettiti! Conte, dimettiti! Ricordando a tutti che qualsiasi cosa che noi facciamo, tutto quello che noi facciamo è semplicemente un tempo che riempiamo prima di affrontare una cosa certa, che è la morte. Dunque ricordatevi bene, tutto quello che noi facciamo oggi è un tempo, è semplicemente un tempo che riempiamo prima di affrontare una cosa certa, che è la morte. Via Monterosa 91 20149 Milano. Applausi, grazie. Già, il signor Parenzo si sarà toccati i coglioni in quel di via, non si sa dove, quartiere Prati di Roma. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera cari amici, buonasera, in una giornata in cui per fortuna c'è da festeggiare perché arriva il piano europeo. Il piano europeo recovery fund arriva. Arrivano, chi se ne frega? Soldi per l'Italia, soldi freschi. E noi invece partiamo con Mario Giordano, ieri sera fuori dal coro. Vai col commerciante prima. Il solito commerciante che dice che mancano i soldi. Vai, vai con Mario Giordano. Lo Stato ci ha abbandonato a noi stessi. Ma dove ninja sono questi soldi? Donato! Donato, allora pronti via, grande puntata, tra poco avremo ospite, eccoli, sta arrivando nei nostri studi Matteo Salvini, che è protagonista della giornata. Dopodiché parleremo di tanti altri, parleremo ovviamente dell'immigrazione, più 220% gli sbarchi, ci abbiamo più sempre la Bellanova che piange, ma nella settimana sono esplose le proteste, fate una vedere la Bellanova, lei piange, lei piange, la Bellanova come piange. Senti, senti che show. Ho capito bene, ma c'è Salvini e poi si parla di immigrati che sbarcano, sì, sì, sì, giusto? Aspetta. D'accordo, scusa, non avevo... Grazie. Adesso fischia pure. Fischia. Il direttore del traffico, cosa fa? Donato! Donato, gli assistenti civici! I guardiani dello spritz, le ronde anti-aperitivo, gli spioni volontari, che cosa si sono inventati? Vabbè, devo dire, questo è abbastanza scontato, abbastanza scontato, perché, fischia, perché si immagina perché che questi assistenti civici, o come cazzo si chiameranno, si presenteranno con un fischietto, diciamo. Ah, si d'accordo, con fischia, solo che ha sbagliato pettorina, l'ha messa gialla, dove avrebbe dovuto mettere la pettorina blu. Le gilet jaunes. Mentre il paese brucia, loro pensano al pericolo della movida. Questo è il titolo. Ah, ho capito, ho capito. Il paese brucia, il paese brucia, sta bruciando, il paese esplode, ci sono proteste ogni giorno e questi che cosa si inventano? I 60.000 volontari civici, sì, sì. I 60.000 volontari civici che devono andare sotto a fermare il nuovo grande pericolo, la movida, discutono solo del pericolo della movida. Ci sono 100 dipendenti delle banche, denuncia del sindacato delle banche, che sono stati aggrediti da persone disperate, perché non hanno i soldi. E quelli discutono dei guardiani dello spritz. E quelli discutono dei guardiani dello spritz. Santo cielo, i guardiani dello spritz, il paese sta per esplodere, ma non si rendono conto. Ma ragazzi, è tutto meraviglioso, diciamo la verità, è tutto meraviglioso. Beh, perché a un certo punto proprio, si va da Sonia, andiamo da Sonia incatenata a Milano. Il paese, il governo chi si occupa Sonia? Di quelli con gli spritz, di quelli che fanno la movida, e intanto c'è Sonia incatenata a Milano, perché Sonia, è senza vero? Casa. Ma sono ma i casi disperati, è fuori d'accordo con tutti i casi disperati dell'Italia, dai! Dai, la realtà! Dovreste essere contenti voi, no? Voi che fate la televisione dovreste essere contenti, anzi, manca ancora il sangue. Cioè, i morti, quando è che si arriverà la morte in diretta, il suicidio in diretta da Giordano? Un imprenditore che si suicida ci vuole in questo momento. Manca questo, Freccia? Cos'è che manca in questo momento da Giordano? Un tocco finale, faccia l'autore. Naturalmente ormai siamo abituati a vedere queste persone che naturalmente sì, si incatenano. Banale, roba da Rai 1. Naturalmente bisognerebbe tornare al grande gesto di Jan Pallack, naturalmente. Lei forse lo ricorderà, visto che ha fatto qualche studio in scienze politiche, naturalmente in storia, naturalmente. Sì, sì. Questo uomo straordinario che si diede magnificamente fuoco, naturalmente. Tutto bene. Il limite di questo è che non c'erano allora delle telecamere in diretta in quegli anni, naturalmente. Oh, vero, c'è sì, soltanto cosa manca foto, a Mario Giordano? Foto, scusi, Freccero, cosa Pallack, manca a Giordano? Uno che si dà fuoco, naturalmente. Jan Pallack manca. E bisogna trovare, manca, come si fa a trovare? Cioè, si deve invogliare l'imprenditore. Bisognerebbe fare naturalmente un grande cast, naturalmente, offrire un gettone di presenza, naturalmente, alto, piuttosto alto, alla vedova, famiglia, naturalmente, un assegno vitalizio, naturalmente. A quel punto quanto si trovano le telecamere adatte, ignifughe, naturalmente, da mettere tutte intorno. E naturalmente la nuova tecnologia permette anche di avere delle telecamere in testa, naturalmente. Queste meravigliose GoPro si chiamano, le GoPro! Dai, quelle che usano gli sciatori quando vanno a sciare, avete presente che si mettono sul casco, le GoPro. Ma come si fa? GoPro però ignifughe. Ah, voi dite come si fa non tecnicamente, naturalmente, ma da un punto di vista umano. Esatto. Questo è un piccolo ostacolo, naturalmente, ma la tecnologia è già arrivata oltre. Però la televisione non è umanità, perché, non c'entra niente da, l'umanità. È l'umanità. Se vuoi fare l'umanità devi andare a San Patrignano, vai alla Caritas per fare l'umanità, non fai la televisione. Dai, ma cosa sei? Ma cosa sei? Il Cardinal Bertone, tu. La televisione che deve educare. Dai, ma cosa è? Tu che devi fare lo show, naturalmente, lo spettacolo. Per cui Giordano ormai è troppo poco, ci vuole gente che si brucia viva, cioè, imprenditori, gente che si... ormai, modesto. Cominciamo da Sonia. Sonia? Buonasera, Sonia. Buonasera. Dove sei incatenata? Tutti che si incatenano. Milano? Davanti al Palazzo Marino di Milano. Palazzo Marino è il palazzo del comune. Tutti che si incatenano. Oggi si è incatenata persino Sandra Milo. Io mi sono, ti posso dire una cosa, su questo vado oltre stavolta. Quelli che si incatenano mi stanno sui coglioni, non so perché. Dovrei essere vicino. Ho capito, quelli che si incatenano. Sandra Milo che si incatena davanti a Palazzo Chigi oggi, seguita dalle telecamere e poi ricevuta da Conte. Ma che roba è? Sandra Milo incatenata per i lavoratori dello spettacolo. Ma vaffanculo, ma che roba è? Incatenata davanti a Palazzo Chigi. Va benissimo, i lavoratori dello spettacolo fanno parte di tante persone che sicuramente hanno bisogno, ma è una rappresentante dei lavoratori dello spettacolo, lei incatenata davanti a Palazzo Chigi. Dai, su, Davide, incatenata con quello che la riceve, poi Conte che la riceve, Sandra Milo. Un qualsiasi sfigato non l'avrebbe ricevuto, invece riceve Sandro Camillo. So, questo non lo so. Perché scusi, si può stare a casa e chiedere voglio questo, voglio quell'altro, no? Sarebbe comodo, però non è possibile. È un'Italia in cui tutti chiedono, un'Italia di disperati, gli autonomi, voi pure siete autonomi, vero? A tutti quanti. Allora qualcuno deve fare qualcosa. Dai, ma che roba è? Dai, su. Alessandro, ci fa entrare il presidente, ha detto possiamo entrare. Fa entrare. Vittorio, ti tesoro meraviglioso, ti richiamo fra poco. Grazie per avermi chiamato. Grazie del tuo sostegno, grazie. Polizia. Sei grande, grazie. A dopo. Ecco, signora Milo, quindi la... Con Vittorio Sgarbi che chiama Sandra Milo prima di entrare da Conte, poi dice Conte politico di altri tempi, solo perché l'ha ricevuta, ragazzi. Ma è una terribile farsa. La gente che si incatena, Sandra Milo tutta imbellettata, truccata con le labbra. Ma dai, su, ma che roba è? Basterebbe che ci assicurasse di accogliere alcune proposte che noi facciamo per la categoria degli autonomi, no? E che le prendessero in considerazione il governo. Conte mi è sembrato un uomo di una grandissima umanità, addirittura un politico di altri tempi, non so, alla Pietronelli, capito? 2020, anno bisesto, anno funesto, porta male, perché in 3 mesi, io non lo so se ci arrivo, tra 12 mesi, non so se ci arriva a 10. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Eccolo! Tu, Cruciani, tu sicuramente i tuoi magheggi col commercialista li farai. E Parenzo, con quelle occhiaie lì, chissà quanti soldi che ha fatto sparire sotto i materassi, cazzo. Intanto un professore di Ovada, ex PD peraltro, ex assessore del PD in un piccolo paese in Piemonte, dice del ministro Azzollina che è una grillina ed è un insulto peggiore che essere. È stata appena minacciata e ha anche lei la scorta. Posso dirti, che trovo abbastanza ridicolo che questo paese all'improvviso diventi, aumenti ancora di più il numero delle scorte. Per carità. Nel periodo di tensione come questo, invece, purtroppo. Il ministro Azzolina minacciata. Nel periodo in cui c'è questa esasperazione, ragazzi, queste parole che vengono utilizzate. Io trovo tutto esagerato. Per carità, poi è una decisione degli organi. Tu sei uno dei fomentatori di questo clima. Non sono fomentatore di benzina sul fuoco. E ti porto via tutto. Uno che dice: se uno dei posti incriminati è quello di un vicepreside di un istituto di scolastico, non so di dove, di Ovada. Comunque, fatto sta che è stata messa sotto scorta. Sì, per carità, che uno che dice la grillina è un insulto peggiore di puttana, mi sembra che uno non è che debba essere scortato. Ci sarà dell'altro. Questo sì, è semplicemente un coglione. È un linguaggio istituzionale. Ma questo è un coglione, fa il vicepreside. Qualunque persona. Lascia stare, appunto. Ma uno così gli diamo i nostri figli in mano? A uno così? Ma fa il vicepreside, si assume le sue responsabilità. Insegnante? Ma no, insegnante, noi ex insegnante, insegnante. Un insegnante che si chiama De Pra. Non tutti i presidi, poi. Ma no, Pra, sì, appunto, si chiama De Pra, un insegnante che ha detto. Abbiamo dato i nostri figli a un personaggio simile, ti rendi conto? Lutwak sul Covid, senti. Cioè, questa è una malattia, è vero, e uccide un po' di gente, ma non è una cosa drammatica. E in tutti gli Stati Uniti, sindaci, governatori, individui hanno deciso di finirla. Chiudere una società, fare 30 milioni di disoccupati, causare tutte le morbidità della disoccupazione, cioè ansietà, accorciamento di vita, violenze, queste cose che succedono quando 30 milioni di persone sono a casa. Calcolate quel numero là, per favore. Non ditemi che 30 milioni di disoccupati non generano un certo numero di morti. Un grande lutto. Intanto, ragazzi, impazza una virologa che si chiama Ilaria Capua. Signora Ilaria Capua. No, una scienziata stimatissima che purtroppo vive a Miami. Io posso dirti non che in questa no, impazza nelle televisioni. Pagata con cachet. Perché per carità, è legittimo, per carità, è legittimo, però pagata con cachet. Qualche virologo dice: io non mi farei mai pagare per andare in televisione, però ognuno fa il cazzo che vuole, si fa pagare, se la pagano fa bene. La quale però dice: ti faccio, no, perché noi abbiamo parlato molto pagata, del caldo. Come tu sei pagato per andare da Mario Giordano, per carità, a tenere Bordoni ai sovranismo italiano, no, Bordone, lei, per parlare, parlare di virologia, sì, certo. Treni vecchi e sporchi hanno diffuso il contagio in Lombardia, ma che cazzo ne sai tu? Porta le prove. Beh, come che ma porta le prove, quali sono? Ma ipotesi di che? Ma di quale ipotesi? La scienza, potrebbe, sempre potrebbe, ma non ne possiamo più di potrebbe, ma che roba. Beh, è? La scienza procede per progressi, per evidenza scientifica. Ma sono tutti a dire cioè potrebbe su cose opposte, su cose casi, opposte. Su statistiche, su numeri. Io credo che una delle migliori operazioni di sanità pubblica che si possano fare, per esempio, è anche quello di sistemare la rete dei treni che gira intorno alla Lombardia, perché sono treni vecchi, sporchi e che molto probabilmente hanno contribuito a diffondere il contagio. Treni vecchi e sporchi che molto probabilmente hanno contribuito a diffondere. Sì, perché se tu stai in un luogo chiuso e sporco per tanto tempo, come succede in inverno, senza poter neppure abbassare i finestrini, ma qual è la prova di questa treno, roba qua? C'è poca reazione dentro il treno, mi sembra abbastanza evidente. Ma e se cosa è sporco, i germi girano ancora più velocemente. Dai. Se non puoi tirare giù i finestrini dei treni. Altri dicono che ci sarà sicuramente una seconda ondata, è molto probabile, potrebbe non esserci la seconda, ragazzi, non ne posso guarda, più. Oggi questi contagi, devono. Oggi. No, io vorrei. Oggi, vorrei, guarda. Ma che c'entra? Quello non conta un cazzo il dato singolo, non dire cazzate. Allora, no, oggi sono io voglio, contagi, ma non c'entra nulla, quello sono dipende dai tamponi, non dire cazzate. Ma sono aumentati, ma sono ma vuol dire che più aumenti i tamponi, più però scopri persone che quella sono positive. Ancora col dato di oggi, ancora coi dati di oggi che sono una noia tremenda. Ma visti la nel capo, corso no, della ma se, settimana, appunto, ovviamente, no, no, non rompere le balle però, con queste cose. La signora capo che dice potrebbe non esserci la seconda ondata, ma ragazzi, io non ne posso. Io prima o poi voglio la sparizione del vorrei, per carità, ognuno fa quello che e la poi sparizione con chi ti dal basi? Video di questi devono sparire, poi, non ne posso più. Sì, e poi con chi è che ti fornisce dati, numeri, ipotesi? Chi te lo fa? Maeluzzi? Fusaro? Chi lo fa poi? Fusaro lo fa. Fusaro. Ma io vi garantisco che se continuiamo ad osservare alcuni comportamenti come quello veramente di lavarci le mani, stare attenti e di tenere quella distanza di sicurezza che fa sì che il virus si possa diffondere da un individuo infetto a un individuo sano, allora non, potrebbe anche non esserci una seconda ondata se noi ci difendiamo bene, continuiamo a difenderci bene. Senti la grande originalità. Allora, se noi continuiamo a lavarci, se noi continuiamo a restare lontani uno dagli altri, potrebbe non esserci la seconda ondata. Senti, questo lo può dire mia figlia, me lo dice, me l'ha già detto 40 volte. Ti giuro, la stessa frase l'ha detto, ma non è perché ha sentito la capua, ce l'hanno ripetuto in televisione, ce l'hanno ripetuto e quindi l'ha capito. Fusaro, ti prego. Si è da più parti rilevato con preoccupazione che il progetto di identità digitale ID 2020 lanciato tra gli altri anche da Bill Gates poteva essere forse un'attuazione del cosiddetto marchio della bestia 666 prefigurato da Apocalissi 13, 16, 18, dove si dice testualmente, leggo: inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Il progetto di Bill Gates è un'attuazione dei piani del diavolo. Ma è scemo proprio blare ormai. Ma che gli è successo? Ma è impazzito. Beh, no, cosa gli è successo? Scusami. Francesco dalla provincia di Matera, non lo so. Non era lo so. Scemo già non prima. Lo so, non lo so. Vai, si può dire o no? Condividi che. Beh, questo è forte, questo è molto forte. Dimmi. Ma no, forte, è una cazzata. Dimmi. Posso parlare? Sì, parla, Francesco, dimmi. Volevo sapere, io sono scoglionato di tutte queste menate che state a rompere i coglioni. Che allora basta, esci. Ma chi? Chi? Non ho capito. Se adesso parla il nano, là, si agite un attimo che devo non ho la cultura che c'hai tu per poter tenere al Ma non ho capito di cosa ti sei stufato. Parla di cose che sai. Ma con che cosa? Preoccupatevi di queste cose invece di mettere i guardiani degli sprint, mettete i guardiani degli scontrini, non mi scassate il coglione, risolviamo l'Italia. I quali vadono dal parrucchiere fino a Marsegaglia, tutti quanti. Adesso è che cazzo piano. Ma non ho capito, tu te la prendi con te, tu dai per scontato che questi evadono il fisco, ma che cazzo, ma che dici tu? Lo so per certo perché lo vivo sulle mie pelle, sulla mia pelle, vado dal barbiere, non ti sono scontrino. E allora pretendilo. Lo pretendo me lo fanno. Ma vergognati di quello che dici, rincoglionito. Ma tu sei un pezzo di merda, tu sei il capo degli evasori fiscali. Ma il capo sarai tu, sei il capo dei coglioni. Molti richiamo l'incoglionito. Guarda sto coglione, guarda sto coglione. Ma perché evasore fiscale ha delle notizie, si vede su di te. Vai a difendere solamente chi non ha bisogno. Ma vai a cagare. Questo è vero però, questo è vero. Ciao, siamo le radio italiane. Tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi. Alla fine dell'estate celebreremo insieme con un evento speciale la storia della radio e della musica italiana. Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong. I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. La zanzara. Le sembra comunque normale tenere un cavallo in casa? Per noi è normale, perché non è un cavallo, un pomo piccolo è. Pronto? Guarda, ma va tra piangole, guarda, a te grindri dici, tu eri clandestino. C'è un po' di rabbia, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice? Ma sulla Santanchè? Si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere. Lo vuole ripetere. Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanchè. piuttosto che andare con lei farei un buco sul cuscino. Ma sulla Sant'Anché. Una vergogna! Una vergogna! Una vergogna! Feeling high and tight. Di tutti i trucchi, considerando che io sono ancora comunque negata, l'ingrediente perfetto per un pompino è l'entusiasmo. Se hai fame di cazzo, si vede. E questo fa un bel pompino. Questo mi pare assolutamente certo, caro Parenzo. Io lo so che tu vuoi la fine di questa emissione radiofonica. Lo so che anche e soprattutto per queste cose tu, come dire, gridi, stai urlando ogni giorno, stai chiedendo ogni giorno l'intervento delle massime autorità di questa emissione, di questa radio. Ogni giorno stai gridando. Sì, perché me ne chiedo qual è la funzione, a cosa serve, effettivamente parlare di questo. Allora ragazzi, voglio porvi una questione fondamentale. Nei mesi scorsi mi è capitato di, anzi no, la cosa risale a qualche tempo fa in realtà, di odorare a un certo punto l'ombelico di una femmina, cosa che immagino sia accaduta a tutti. Non ti è mai capitato di sentire l'odore dell'ombelico di una donna? Non ti sei mai messo ad odorare l'ombelico di qualcuno? Ma cosa vuol dire? Ma che domanda è? Il paese attende di sapere. Abbiamo appreso i fondi che saranno destinati all'Italia da parte dell'Europa, a fondo perduto. Ma ragazzi, ma annusare l'ombelico, lasciati raccontare questa cosa che è molto molto particolare, perché non ti sarà capitata. A chi l'hai annusato? A chi? Diciamolo. Ma non me lo ricordo nemmeno, ti giuro. Ma no, ma sai a chi cosa? Ma non sai un cazzo. Non lo voglio neanche dire che volevi annusare l'ombelico. Ma cosa dici di che volevi? Hai annusato alla fine l'ombelico di che? È una storia veramente triste. Triste? Allora, dunque, la cosa è questa: uno annusa un ombelico, lascia perdere il periodo, il tempo, la situazione. Era non è importante. Deputata di Fratelli d'Italia, una tragedia. Sei una persona veramente poi anche sporca dentro. Annusare l'ombelico di una deputata di Fratelli d'Italia, ma perché? E perché lo devi raccontare poi in pubblico? Allora, davanti la cosa è assolutamente vera, non è vero che è una deputata di Fratelli d'Italia. Odorare l'ombelico. Cosa particolare, la prima volta che mi è successo in vita mia. Ti posso dire qual è stata la sensazione. Per la prima volta nella mia vita volevo condividere con gli ascoltatori, perché magari anche a loro è capitato, magari è una patologia, magari è un problema che una persona ha, perché veramente per la prima volta mi sono trovato di fronte a una cosa che non è imbarazzante, per me è stato eccitantissimo. Cioè è stata una cosa di un'eccitazione spaventosa. Lascia perdere. Allora, ti giuro che è venuto fuori un odore di formaggella. La cosa incredibile è che non mi ha fatto schifo, amico mio, non mi ha fatto schifo. Un odore di formaggia. Ma che senso ha? No, ma che cosa vuol dire? Vorrei capire, magari da qualche dermatologo, da qualcuno esperto di queste cose, se è una cosa comune, se può succedere. Magari c'è una ritenzione idrica, se la cavità dell'ombelico non riesce ad espellere le cose. Che non si lava, si lavava tantissimo, ti giuro. Dovrebbe avere il profumo della pelle. Ma è al contrario, ti posso dire solo comunque posso dirti una cosa della quale sono certo. È un argomento che domani i lettori del Sole 24 Ore non troveranno in pagina. Purtroppo, dico io. Cioè sono, credo, sicuro al 101% che non ci sarà, per fortuna, alcuna inchiesta su questo argomento. Per fortuna. Comunque era un odore di formaggella incredibile, un odore proprio di formaggia, cioè come di cosa stantia, e questa roba qui mi ha fatto impazzire in realtà, non mi ha fatto schifo. Odore di malga, se vuoi sapere tecnicamente la parola, di malga, di montagna. Però a che serve questa conversazione? Direttamente dalla località segretissima, innanzitutto buongiorno a tutti quanti. Guardate questo volto. Cosa? stiamo lavorando per voi. A breve, cioè? Vi daremo delle delucidazioni riguardante un nuovo partito politico, né di destra né di sinistra. Noi lavoreremo per voi cittadini, giusto fratelli? Assolutamente sì. Mamma mia, perciò questa fascia, sì, guardatela bene, che fascia, che presto i cartelloni parleranno per me. Votate il brasiliano, mi raccomando. Il brasiliano sta per fondare un nuovo partito. E indovina da dove ha fatto questo annuncio, che potrebbe essere, come dire, paragonato all'annuncio, no, di una qualsiasi, no, ti ricordi gli annunci di quelli che fondano i nuovi partiti, l'annuncio di un novello Mussolini, le discese in campo, come Berlusconi quando annunciò. Indovina da dove, caro David, indovina. Ma non lo so, da Piazza Venezia. Aspetta, non ho senti, idea. Senti. Esattamente, da dove? Prati, perché si può dire Prati. Diciamo che questa mattina abbiamo fatto delle cose molto molto interessanti barra importanti. Abbiamo raggiunto obiettivi interessanti barra importanti in brevissimo tempo, in pochissimo tempo. E devo ringraziare anche il dottor Nicola Cecchini. Ok? Detto questo, queste facce, ricordatevele, che fra un pochino ci affiggeranno in tutti i luoghi di Roma, le pareti, le fermate degli autobus. Ma la cosa più importante è che saremo la loro voce realmente. Sì, la loro voce. Perché noi siamo la vostra voce. Non solo parte integrante. Chi è lo spin doctor là? Chi è? Mi raccomando, credo che sia uno ex Italia dei Valori di non so quale circoscrizione. Io dell'Italia dei Valori. Amico mio. Che cosa meravigliosa, dai, che cosa stupenda. Allora, eravamo con Francesco dalla provincia di Matera, che non so che cazzo voleva, dice che i commercianti non devono rompere i coglioni e non deve rompere i coglioni nessuno perché sono degli evasori fiscali. Francesco, io non so come fai a dire una cosa di questo tipo, vergognati, ripeto ancora una volta, vergognati di quello che dici. Vergogna, vergogna, vergogna. Io non mi devo vergognare di un cazzo, Cruciani, perché dico la verità. Ma quale verità? Adesso qualcuno farà l'evasore, qualcuno... Quale qualcuno? Il 90%. Ma che fai tu di mestiere? Cosa fai di mestiere? È arrivato il camionista contro gli evasori, avanti tutta, contro dai. Contro gli evasori, perché invece di battervi per quanto riguarda veramente gli operai e la povera gente, che si preoccupa al suo stato per i commercianti. Ma allora veramente non si preoccupa per niente, questo è il punto. Questi controllori che dovrebbero controllare per gli sprit, dovrebbero controllare. Sì, ma metti, leva il viva voce, rincoglionito di camionista. Sto guidando, perso di toglilo, sto toglilo, toglilo, toglilo, toglilo, toglilo, toglilo, toglilo. Poi volevo chiederti, l'auricolare, la toglilo, toglilo. Però la sorella di Sgarbi, Squirta. Ma che diavolo, ma vai a fare in culo, Francesco. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? No, lo dici a qualcun altro. Ti porta via tutto, ti porta via tutto. Stronzo, ti porta via tutto, ti porta. Pure il camion, pure il camion ti faccio portare via. Vergognati. Vergognati. Sei la vergogna dei camionisti, sei la vergogna. Sei la vergogna dei camionisti, sei la vergogna dei cronisti. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Se ci pensate, sembra davvero che il marchio della bestia, come lo chiama l'Apocalissi, sia effettivamente già attuato mediante il nuovo marchio della mascherina. Un secondo punto di contatto è il fatto che è il marchio della bestia. Se ci pensate, quando calziamo la mascherina diventiamo a tutti gli effetti delle bestie, giacché smarriamo uno dei connotati più peculiari dell'essere umano, ma che è duplice. Culo, alludo naturalmente al volto, abbiamo semplicemente un muso deformato cretino da questa specie di museruola che ci rende irriconoscibili, cancella il sembiante umano, ci rende assolutamente assimilabili, interscambiabili, seriali gli uni rispetto agli altri. Secondo aspetto, la mascherina ci rende bestie, da che ci priva del logos, della parola. Con la mascherina si può mugugnare. Abbiamo già tutti il marchio della bestia nella mascherina, quella mascherina che potrebbe essere la moda dell'estate, ci dicono, e che comunque diventerà la nostra normalità. Addirittura vi sono alcuni sacerdoti della scienza medica che hanno intrapreso una vera e propria crociata contro quelli che essi stessi appellano sprezzantemente i no mask, quelli che non vogliono la maschera. Ecco, forse il marchio della bestia è già tra noi ed è la mascherina. Il marchio della bestia. Ma che il marchio di Satana. Ma quale marchio della... Ma digli qualcosa, ma è pazzo, poveretto, ma si rende ridicolo, diglielo anche tu, a te t'ascolta. Voi diglielo che si rende ridicolo, poveretto. Berto da Vicenza, Venezia. Niente, Berto da Venezia, Berto. Fammi sentire Berto. Tu ti chiamate Berto. Sandro da Firenze, vai. Sandro da Firenze. Ciao ragazzi. No, su una cosa, credo che come il partito del Brasile, dopo Fusaro e l'ombelico di Cruciani, la Van der Leyen i soldi non ce li dà sicuro, quindi anch'io forse in Ursula anch'io ci penserei. No, bravo, bravissimo. Ma non ho capito una cosa, ragazzi, ma se uno vive un'esperienza in cui odora un ombelico e l'ombelico dice ma noi scusi dobbiamo dare i soldi a un paese in cui c'è un conduttore radiofonico della radio degli industriali che annusa gli ombelichi, cioè io peraltro questo è il tema, ecco come distruggi l'Italia agli occhi dell'Europa, contribuisci a farlo. Io mi auguro che Ursula Van der Leyen non si informi sulle trasmissioni che vanno in onda nel canale del più importante industriale italiani. Dove c'è un conduttore che dice che annusa gli ombelichi, questo è nel giorno del Recovery Fund, una cosa pazzesca, annusa gli ombelichi. Scusa, e poi dice la Francia e la Germania che ci trattano come degli idioti, ma ti credo, se un conduttore radiofonico delle 18:30 della fascia del pre-prime time, del drive time, annusa gli ombelichi, ma ragazzo che mio, sanno ma di formagella, che sanno di formagella. Fermo Sandro, torno subito, aspetta. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I fatti raccontati in modo semplice ma senza semplificazioni e spiegati in profondità affinché diventino idee da condividere. Effetto Giorno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14. Naturalmente qui su Radio 24. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Questi di mo che fanno la musica rap, trap, truppe, trap, una razza perna. Che cazzo, se fai un male di coach. Prima la musica era melodia, passione. Prima la musica e la melodia. Cosa scelta gli occhi rossi poi? Parenzo. Preferivamo scopare. Questi di mo che fanno la musica rap, trap, truppe, trap, una razza aperta. Che cazzo ti fai un male di coach? Prima la musica e la melodia, passione. Break! Acid broken! Where? Is this going down? Bring me down. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Eccoci. Mentre le operatrici delle mense scolastiche sono in piazza a lottare per un pezzo di pane, il signor Parenzo è rinchiuso ancora nel suo bunker con la sua camicina firmata. Ho deciso, non ci sono cazzi, quest'anno cambio commercialista, mando a fare in culo il mio di 63 anni che è un po' rincoglionito e ne fa uno più di Bertoldo e mi farò fare la dichiarazione dei redditi dalla commercialista Pina Pitoni. Mamma mia, siamo al top oh, al top Pina Pitone. Perché la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN. Volevo dire a tutti sti fenomeni che mi chiamano col numero privato per farsi qualche risata, qualche redazione di radio che io conosco, che sono inutili, leccaculo veramente, gente inutile. Ci sono pure coglionazzi che con la radio mi chiamano col culo coperto a prendermi in giro sulla salute mia. Oggi Lidos, la clorochina, diciamo, è stata, l'AIFA ha sospeso, sì, anche l'OMS l'ha condannato, bene. L'AIFA, che è l'agenzia italiana benissimo del farmaco. Io ne tengo preziosamente delle scorte prima che scompaia dal mercato. Questo parlo per me, naturalmente, poi ognuno faccia quello che vuole. Noi, Alessandro Primo. A me sembra che questo virus, come tutti i virus respiratori, in particolare il coronavirus, abbia un suo decorso, è una sua parabola. Chi l'ha studiata attentamente, come il professor Montagnier, o un'importantissima conferenza stampa fatta dal Mossad israeliano ormai un mese fa, ci dice che dove questa epidemia, pandemia, infodemia si è realizzata nel mondo, ha una curva di durata di circa 70 giorni, dopodiché il fenomeno si spegne. Noi. Meluzzi cita il Mossad, tu dici che il Mossad dovrebbe rivalersi per danni, dici. Ma il Mossad dovrebbe venire qui, rapirlo con un straordinario rendition e poi in qualche modo riconnettergli il cervello, risistemarlo, metterlo in un'isola deserta. Ma sta creando dei danni enormi a uno dei più importanti eserciti del mondo, peraltro, a uno dei più importanti servizi di intelligence del mondo. Noi, eccolo qua, Alessandro Primo. Allora ragazzi, hanno fatto il discorso. Però posso chiederti una cosa davvero, perché tu non ti sbilanci mai su queste cose. È credibile, secondo te, uno che dice noi, Alessandro Primo, primato della Chiesa autocefala? Ma anche tu vai a fare le due cerimonie ebraiche. Ma io non sono primato della Chiesa, non puoi mettere sullo stesso piano una tradizione millenaria con uno che si è autoproclamato primato della Chiesa autocefala, della cosa, della minchia. Ma hai ragione, ma come ti permetti? Io domani mattina mi... Ma io, ognuno fa da mille anni, no? Ma io non mi sono autoproclamato rabbino della Chiesa, mai autoproclamato di niente. Quello si è svegliato una mattina, ha detto: non so che cazzo fare, sono già stato comunista, sono già stato socialista, sono già stato berlusconiano, sono già stato sovranista, ormai lo sono. Sono uno psichiatra, non lo so. Allora, che cosa faccio? Ma divento primato della Chiesa autocefala della cosa. E si è autonominato. Ortodossa. Si è autonominato e ha fatto quella cosa. Posso chiederti senza arrabbiarmi, se secondo te è normale? Ma ognuno fa danni a qualcuno. Ognuno fa quello che vuole. Fa danni a qualcuno. Ma che danni fa? Posso dirti, se io da domani andassi alla 7 e mi dicessi: guarda, inizi in onda, no, mi chiamate Parenzo Primo. Dice: scusami, come mai? Sì, io voglio condurre in onda e voglio essere considerato Parenzo Primo primate autocefalo di in onda. Secondo te il dottor Ghigliani, che cosa mi direbbero secondo te se io mi autoproclamassi? Secondo te, ma te lo chiedo, se io dovrei dire, o se venissi a Radio 24 dicessi: guarda caro direttore, caro Barisoni, caro direttore caro direttore Tamburini, io vorrei da oggi che sul sito della radio fosse scritto David Primo primate autocefalo, anche nel contratto vorrei che fosse scritto così. Secondo te che cosa direbbe? Il contratto non lo firmerebbero. Secondo te, per carità. Allora, hanno fatto discutere viceversa, se tu andassi da Del Debbio, no? E gli dicessi: caro Paolo, da oggi, oppure da queste, visto che lo ospitano a Meluzzi, tu abbi coraggio. Da domani, quando vai da Del Debbio, dici: no, stracciamo il contratto, facciamone uno nuovo. Io sono Giuseppe Primo, autocefalo della Chiesa ortodossa. Che cosa ti direbbe secondo te se tu dicessi così? Al dottor Crippa, direttore generale, che cosa? Vai, abbi coraggio, vai, visto che per te è normale. No, ma visto che per te è normale dichiararsi primate della Chiesa autocefala della cosa, fallo anche tu, se per te è normale. Non fa danni a nessuno, porca puttana. Ma ho capito, se è normale, fallo. Perché non lo fai? Noi. Noi, Alessandro appunto. I. Sentilo tutto. Al secolo tutto. Alessandro Meluzzi, primate della Chiesa Ortodossa Italiana autocefala. Antico orientale. Vai domani da Del Debbio e digli che tu vuoi essere chiamato così, non più caro Giuseppe, ma ogni volta che ti dà la parola lui deve dire Giuseppe Primo, primate autocefalo della Chiesa della Zanzara. Vediamo se ti invita ancora, vediamo, vediamo. Allora ragazzi, una grande notizia, intanto dal 6 di giugno riaprono i bordelli in Svizzera, non si capisce bene perché? In che modo, nel Canton perché? Ticino naturalmente, luogo più frequentato dagli italiani, non si capisce ancora se la frontiera sarà aperta, probabilmente solo dal 15 la frontiera tra Italia e Svizzera. Un applauso ai signori svizzeri che hanno finalmente tolto questo assurdo lockdown. Ci saranno delle precauzioni, delle cose, un numero massimo di persone, dicono che possono aprire fino a mezzanotte, altra assurdità. E un sindacato di prostitute, diciamo, un sindacato, non so se di prostitute o di gestori di locali, avevano proposto addirittura che si poteva scopare solamente a Pecorina, ti giuro. Cioè la proposta, non so se sia stata accettata, è i frequentatori dei bordelli possono trombare solo alla Pecorina. Vabbè. Per permettere al volto della prostituta di essere lontano dal volto del cliente. Beh, no, vabbè, la realtà è questa qua. Ti assicuro, una proposta assurda, non so se sia stata accolta, ma è così, dai. Che voglia di cazzo, mamma mia. Ho capito, questa è la signora Saurino, un'altra cosa. Mauro Corona dice che i cacciatori dovrebbero insegnare qualcosa nelle scuole. Frase che è stata molto discussa, signor Corona, ieri a Cartabianca, vai. E ti credo. Sono anni che dico nelle scuole elementari soprattutto mandiamo le guide alpine, mandiamo i contadini, mandiamo, udite, chi? Adesso verrò linciato, i cacciatori che ti insegneranno questi bambini quando andranno nel bosco, che non si passa nel territorio dell'orsa quando hai piccoli. Capito? I cacciatori alle scuole elementari, i cacciatori a insegnare come ci si comporta all'interno di un bosco. Naturalmente è venuto giù l'inferno con gli animalisti incazzati, eccetera, eccetera. Ragazzi, ma che cosa vi incazzate? Che vi incazzate per che cosa? Cioè, non, a me non me ne frega niente. Adesso, che roba è di mandare di cose delle scuole, dai, con tutto il bisogno che c'è di imparare educazione civica, matematica, stai dicendo che i cacciatori non hanno nulla da insegnare, ma non ho capito. I cacciatori nelle scuole, ma non diciamo follie per piacere, dai. Ancora il signor Corona. Signor Corona, tu vuoi i cacciatori nelle scuole? No, vorrei uno che insegni bene l'italiano, i congiuntivi, il latino, il greco, che ne so io, i cacciatori delle scuole, mamma. Allora, Corona parla della Azzollina, ministro dell'istruzione, quella con le labbra rosse, fa incazzare la Berlinguer. Adesso ragazzi, va bene tutto, ma uno non è che non può fare nemmeno una battuta sulle labbra rosse della Azzollina, che è come si presenta lei, perché è passare per sessista ancora una volta con queste minchiate. È una che ha una certa sua un certo suo fascino, porta queste labbra rosse, assomiglia anche un po' a Mona Pozzi. Vabbè, ma non è senso che ha? Ma ho capito, ma uno non può fare una battuta, è Corona, è Corona, non è il presidente del Consiglio. Io devo dire una cosa, ma che c'entra l'educazione a partire da tutti? Ma che c'entra l'educazione, dai, su. Io della ministra dell'istruzione non comprendo neanche certe labbra rosse. Vabbè, perché quella si mette rossetta labbra come gli pare a lei. Ogni giorno si concia come vuole. Un ministro con delle labbra così. Ma scusi, guardi, in questo devo intervenire, seri, perché se fosse un uomo nessuno gli direbbe niente. Siccome è una donna la attaccano per le labbra rosse. No, non c'entra niente. No, la questione non sono le labbra rosse della ministra, ma il lavoro che svolge, valutiamola in base a quello, non certamente al fatto che si mette o non si mette il rossetto, come tante donne che giustamente diciamo sono libere di agghindarsi meglio credono. Perché lei ha mai sentito un uomo che gli dicono perché si mette quel modo, si mette quell'altro modo? No, viene detto soprattutto delle donne. Ma come no? Ragione, sono peggio delle donne, vanitosi. Sono vanitosi, però non vengono attaccati per quello che indossano. Ogni tanto si dice guarda che cazzo di cravatta, viene mai come attaccato. No, il vestito di Alfano, il vestito di Alfano veniva definito il vestito, ma no, ma molte volte allora posso dirti le labbra improponibili, la donna la prima cosa che si dice labbra, è quella, ha ragione Bianca Berlinguer, è spregevole dire queste cose, spregevole. Ha detto delle labbra improponibili, ho capito, non gli piacciono le labbra, ma uno può dire che non piacciono le labbra? Ha detto delle labbra improponibili, che cazzo vuoi? Non è che devi parlare della scuola, ma non lo diresti mai di un uomo, ma come no, tu non hai mai fatto battute sulla grassezza delle persone, sì, che dici, dai, su, non dire cazzate, si dice anche degli uomini, cioè se uno è grasso gli dici quello è un ciccione, ogni tanto glielo dici, no, cioè non è che non si dice, sì, quello può sarà e allora appunto, sì, è la stessa cosa le labbra, uno dice le labbra, non è che gli ha detto, per lui sono improponibili, per me invece non sono affatto improponibili, tra l'altro le labbra. Ma nel merito della Azzolina valutiamo quel che fa, piuttosto ma va bene, che quello ma che è corona mette, quello, è corona, certo. È corona, non cioè è che lei è lì per essere valutata se fa bene il ministro dell'università e della ricerca scientifica, del ministro, scusami, dell'istruzione. Ma grazie al cazzo, non dai, ma nessuno dice il contrario, dai, su. Berto da Venezia, dai Berto, no, era, c'era Sandro da Firenze che doveva concludere, vai. Sandro, no, dimmi. Solo su una cosa, andando su cose serie, già che si deve valutare per cosa fanno, mi dici come fa il presidente Tridico dell'INPS a dire, signori, stiamo inondando di soldi e non arriva una cassa integrazione, ma questa gente sa quello che fa, non guardiamo il labbro rosso, non guardiamo le scemette, ma questi non sanno quello che fanno, ma sapete c'è una tensione in giro, alle banche, c'è grande tensione, basta guardare, se tu guardi la trasmissione di Mario Giordano c'è tanta tensione, tantissima tensione. Questo lo dico, io sono molto vicino a Parenzo, anche lui una partita di Ivano Mello deve sapere, allora? Quello che dico a te invece, mettiamolo con quelli che è tutto pazzo, perché te guarda solo oggi, il Veneto fa 14.000 tamponi e trova 8 persone positive, la Lombardia ne fa nel mentre 10.000 ne trova 380. Ma ho capito, ma ragazzi, ma che c'entra? Il problema è lì. Ma ho capito perché è un mistero che la Lombardia abbia più persone col Covid rispetto ad altre regioni. Giuseppe, ma io non ho detto che è finita, ho detto che ma chi ha detto che è finita? Ho detto se tu fai tanti tamponi in Lombardia ce ne saranno in proporzione di più perché la regione è più colpita, non mi pare una grande novità. I morti sono di meno, ho capito, in Veneto infatti l'hanno contenuto meglio, anche questa non è una novità, Claudio da Milano. I morti non contano più, contano anche i ricoveri e sono sempre in diminuzione. Claudio da Milano, Giuseppe, David, ciao ragazzi, buonasera. Allora, io volevo intervenire sul discorso dell'Ilaria di Capua. Ilaria Capua, scusami. Allora, sì, un po' non c'entra quello che hai detto tu, perché tu hai parlato sul suo finale di discorso, no? Lei aveva fatto tutto un preambolo. Ma che c'entra? Io ho preso una frase che è quella che riprendono tutti, non è che l'ho fatto solo io questo ragionamento, questa operazione. La Capo ha detto una cosa che riguarda i treni sporchi. Per me è una puttanata. I treni sporchi però è un'evidenza. Ma cosa vuol dire? Ma devi darmi le prove che i treni sporchi in Lombardia hanno provocato aumentati contagi, anche un'ovvietà, se vuoi. Le persone ammassate in un treno è probabile che si siano infettate di più e grazie al cazzo. Lo sapevamo, a prescindere dal virologo internazionale, no? Che le persone ammassati in un posto sporco si possono infettare di più. Che cazzo ci vuole la Capua per dircelo? Che dentro un treno, se per giunta sporco, con le persone una a contatto con l'altra, si possono infettare di più? Ci vuole la Capua per dirci una puttanata di questo tipo? Certo, anche dai, tu su, non ci avevi pensato, infatti tu non sei ma un io virologo. Non ci ho pensato, tutti ci hanno pensato da 3 mesi che ci pensano, dai. Ma chi ci ha aspettato da 3 mesi? E forza, dai, forza, su. Vogliamo genialità, vogliamo cose originali, vogliamo cose rivoluzionarie. Ma non è una zanzara, quale genialità? Dai, quella è una scienziata, non è una zanzara. Appunto, dico, appunto, maggior ragione. Ci vuole originalità. Certo. Il discorso del ritorno della pandemia, ragazzi, è così fatto che... Ma così fatto chi lo dice? Alcuni dicono che tornerà, altri dicono che è improbabile, come ieri, per cui nessuno sa un cazzo. C'è il discorso che comunque si è un po' spento. Ragazzi, ma è vero o no che ne hai sentito? Scusami Claudio, è vero o no che ne hai sentito di tutti i colori? Secondo alcuni ritornerà, secondo altri no, secondo alcuni il caldo, secondo altri il caldo sì, caldo no, tornerà, non tornerà, 5-6 mesi di vita di questa merda. Ho capito, va bene, ma intanto è così, ci sono contraddizioni fino all'infinito tra questi virologi, non ne posso più. Claudio, ciao. Poi vabbè, next time, Claudio, next time con noi la vegana animalista più combattiva del mondo, Daniela Martani, eccoci qui. Ciao, Rosane, ti sono mancata? Beh, mi manchi sempre. Ciao, cara. C'è qui la voce. Anzitutto volevo chiedere questo perché sei stata segnalata, cara Martani, qualche tempo fa da un importante dirigente di un'importante azienda. Ma perché devi sempre raccontare i cassi degli altri? No, non voglio dire chi, ma sei stata vista litigare, così mi hanno segnalato, un importante dirigente di una importante azienda mi segnala che qualche una settimana fa, tipo eri con un cane. Ma tu sei peggio degli assistenti litigare. Civici. Peggio. No, sì, certo, a litigare con i vicini di casa a urlare perché ti hanno, perché c'avevi il cane e ti avevano detto di metterti la mascherina. Non ho capito, hai fatto una figura incredibile con la gente che ti ma ha detto ma tu la metti la mascherina, Martani, la metti o no, Daniela? No, non te ne frega un cazzo, assolutamente te. Sei contro la mascherina, ecco perché allora è vero questo racconto. No mask, il partito dei no mask, cioè pensi che addirittura faccia sia nociva per la salute, mi sembra di capire, assolutamente no? Nociva per la salute, chiaramente quando non c'è necessità, cioè per esempio adesso la stupidaggine di dover entrare in palestra, cioè di proprio entrare, cioè l'entrata in palestra tu devi fare con la mascherina, quando sei dentro nella sala dove sei praticamente tutti insieme in un'area chiusa te la puoi togliere perché chiaramente devi fare ginnastica. Allora spiegami la logica di questa decisione, una puttanata, cioè, spiegatemi la logica di questa, la logica di questa è una puttanata, una cazzata proprio enorme, quindi insomma no, se io ritengo ingressi contingentati, pochissime persone, e quindi se ci sono pochissime persone nelle finestre aperte lì è chiaro che tu... per entrare c'è una fila, si forma una fila, non devono. Incredibile. Poi quale mangio, fila? Poi in palestra dove vado, la palestra dove vado io sono contingentati gli ingressi, a parte che non ci sono entrato, certo, faccio ginnastica all'aperto, ma si io. Forma la fila perché ti fanno ti misurano la temperatura, poi ti devi insomma devi fare un sacco di studi, vai a farti una bella corsa a Villa Borghese come faccio io, fai gli esercizi lì e basta gara. Io mi sono fatta la sierologica, capito? Quindi ho speso i soldi di tasca mia invece di farmi pagare dallo Stato. Al di là di questo ti volevo chiedere un'altra cosa, vabbè, comunque volevo chiedere un'altra cosa. Ma tu il tuo cane lo baci in bocca, ad esempio? Il tuo cane lo baci? Assolutamente, no. lei mi bacia in bocca. Sì, sì, dorme con me, non sì, le lavo mai le pure zampe. Pure una slinguatina, te la fai lingua, o no? Sì, ogni tanto pure la slinguatina, secondo me. Come no? Sì, se la fa la slinguatina, ma sicuro. Ma come? I cani hanno la tendenza a baciarti in bocca. Chiaro, non è che mi fa piacere che mi baci in bocca, però con la lingua, tanto capita che mi arriva in bocca la lingua. Con la slinguatina. Allora, ti devo dire la verità. Mamma mia, antigenico, mamma mia, ragazzi. Quando il cane che sta con me, dorme con me sul letto, non mi sono più ammalata ma di niente, ma cosa proprio c'entra, scusa, sono ma che c'entra? Vuol dire che comunque gli anticorpi, i miei anticorpi sono, io ho un sistema immunitario fortissimo, a parte dovuto io fossi te mi toccherei un po' pure a dire continuamente io non mi ammalerò mai, ho gli anticorpi fortissimi. Ma certo, tu devi essere convinto di quello che pensi, cioè tu ti attiri quello che tu non vuoi, fondamentalmente. Quando le persone dicono io non mi voglio ammalare, tu ti attiri invece la malattia, ma tu sei una di quelle che non si farebbe la chemioterapia, per esempio, sei contro la chemioterapia, sei capace di essere contro la chemioterapia? Cusano, mio padre è morto, si è fatto la radio e la chemio, tutte le persone che conosco che sono fatte radio e chemio sono morte, sinceramente. Beh, allora, se tu mi dici che la radio e la chemio non lo direi con questa leggerezza, mi dispiace per il papà, però ma scusami, io ho avuto persone in famiglia, è pieno di persone che no, ma questo mi dispiace molto, figurati, però diciamo la scienza ti dice il contrario. Io non conosco le persone, i miei amici che sono morti a 45 anni di tumore allo stomaco quest'anno, si è fatto cambio a radio, è morto. Vabbè, okay, ma non per colpa, del tumore, per colpa delle cure, dai, su, Daniele. Ma allora scusami, però se non mi puoi far passare la chemio come la cura. Per adesso quella ci abbiamo. Per ora quella c'è. Per ora quella c'è e la scienza condivide che è uno strumento. E tu che faresti? Allora? Non faresti un cazzo? Andresti. Cambio la radio non me la farò mai perché ho visto quello che ha fatto mio padre. Per cui che vai a guardare gli alberi? Che vai a guardare gli alberi, abbracci gli alberi per guarire? Senti, ti posso dire, io vivo la vita con fatalità, ti posso dire, se mi dovesse succedere, io provo con le cure naturali, non guarisco, muoglio, tanto comunque non è che la chemio la radio. Ma le cure naturali che cosa sono? Le cure naturali? È molto difficile. Ma le cure naturali a base di che? A base di che? Ma a base comunque di un'alimentazione sana, a base di tante altre cose, insomma ci sono altre, perché la cura di Bella, scusami, sono persone che si fanno la cura di Bella. Ma tanto tu parezzo la cura di Bella, questa che si fa baciare dai cani in bocca, parla della cura di Bella, ragazzi. Io non ho altro da aggiungere. Ci sono milioni di persone vive con chemio radio, grazie a chemio radio, ti posso segnalare. Ma non diciamo stupidaggini, anche se vanno a Lourdes, cioè allora tu vorresti che c'entra Lourdes con la scienza? Lourdes, dai, su, scusami, ma non è la stessa cosa. Lourdes è la cosa, dai, su. Ma sono persone che sono guarite, addirittura li studiano perché si vanno a Lourdes per guarire. Ma quale Lourdes? Che cosa studiano? Non diciamo stupidaggini, su. Io posso credere pure ma che quando il sole guarisco. Questi sono gli effetti del crucianesimo. Ognuno crede in quello che vuole. Sì, questi sono gli effetti devastanti delle campagne del crucianesimo. Ognuno crede in quello che vuole. E il risultato è che abbiamo sta mezza sciroccata che si bacia in bocca con i cani, che dice di andare, che va a Lourdes e che non si cura quella che è. Questo è il risultato del crucianesimo. Questa gente che guarisce pregando, perché tu vuoi negare, guarisce pregando, ma non diciamo, ma vaffanculo, guarisce pregando, ma non diciamo minchiate, su, guarisce pregando, si guarisce con la scienza, con i medici, ma sì, il Papa si cura, il Papa pure lui si cura e non si fa baciare in bocca dai cani, hai capito? Migliaia e migliaia di persone all'urte, ma sì, il Papa si assicuro che il Papa si cura, ti assicuro che il Papa ha medici anche ottimi, eccezioni, i migliori medici del mondo curano il Papa. Come e no? Allora dillo a tutte le persone che vanno a Lourdes sperando di guarire. Lourdes, e molte sono guarite. Lourdes come la scienza. Vabbè. Allora voglio chiedere una cosa, però all'amica Marta voglio chiedere una cosa. Io lo dico alla Confindustria, questi sono gli effetti del crucianesimo. Lo dico. Sono gli effetti dell'uno vale uno. Gli effetti del crucianesimo. Tu sei allineato al sistema. Tu sei proprio allineatissimo. Se il sistema anche di Burioni. Anche di Burioni. Sì, vero. Se il sistema sono i medici. Se io sono allineato al sistema, cioè ai medici, e tu sei con una che bacia i cani in bocca, io sono allineato col sistema tutta la vita. Mauro Corona ha detto che i cacciatori dovrebbero essere mandati nelle scuole a insegnare ai bambini come ci si comporta con gli orsi, eccetera, eccetera. Sì, cacciatori, signor Mauro Corona. Mauro Corona. Mauro Corona ormai, poraccio, soffre di demenza senile, lo sappiamo tutti. E fra l'altro ha anche problemi di alcolismo, mi sembra, perché insomma beve parecchio, credo che abbia perso la lucidità. Chiamaglielo al volo. Chiamalo al volo, mettilo a confronto con la signora Martani. Confronto. Ma così. Vedete, il cacciatore mi deve insegnare a me come rispettare la natura. Ma questo sta chiamalo, chiamalo al volo, al confronto. I grandi dibattiti della zanzara. Chiamalo. No, fammi capire, Parenzo, tu che parli tanto. Tu ti piacerebbe che un cacciatore va a scuola dove c'è tua figlia e gli dice assolutamente come sparare all'uccello? Assolutamente no. Io non voglio cacciatori a scuola che insegnano a sparare all'uccello in alcun modo. Non voglio neanche cani, non voglio neanche cani a scuola che si mettono a pomiciare con gli insegnanti e insegnano cose di questo tipo. Sia ben chiaro. Vorrei degli scienziati a scuola, vorrei degli scienziati, ad esempio. La pet therapy, che c'entra la pet therapy? Quella è una cosa seria. È fondamentale per la guarigione di alcune patologie. Sì, questo è vero. Vogliamo sostituire la pet therapy alla chemioterapia? No, se vogliamo sostituire anche la pet therapy, vogliamo mettere un cane più efficace della chemio? Vogliamo arrivare a dire questo, che un cane più efficace della chemio? Scusami, Gruciani, ma non ho capito. Ma c'è gente che guarisce non facendo radio, ma coi cani, vabbè, no, benissimo, la chemio è, ma scusami, la pet therapy è efficace per molte patologie. Ma non è possibile, questo è vero. Fermo là. Domanda a Mauro Corona, cioè non ci sta più con la testa. Ferma, che torno tra un attimo. Diglielo in faccia. La zanzara. E partecipa alla raccolta fondi. Fai felice un uccello. Io ho già contribuito, fai come me. E anche tu potrai dire con orgoglio: ho fatto felice un uccello. Andiamo pure. Allora siamo con Daniela Martani. Vorrei chiedere a Daniela se è mai successo il suo ombelico puzza di qualcosa. Perché non ci arrivo io. No, magari te l'hanno detto. So che i tuoi partner ormai sono lontani anni luce, dunque non frequenti questa azienda. Però ho scoperto qualche tempo fa che un ombelico odorava. Io mi sono eccitato tantissimo. Odorava di formaggella. Mi dicono alcuni che è assolutamente normale questo tipo di cosa. A te ti piace l'ombelico che odora di formaggella? Beh, amica mia. Ma tu hai un problema. Mi ha fatto impazzire. Capisci perché, Parenzo? Io e Cruciani non potremo mai avere una storia però d'amore. Però posso dirti, ma voi avete già avuto una storia, no, avete già avuto una storia. Niente, ma che c'è stato qualcosa? No, che vabbè, meglio che non parli. L'ombelico che odora di formaggella. Sì, ma non sempre di formaggella. In alcuni momenti, questo ombelico sapeva di formaggella. Che ti devo dire? Ma è una, era un affrore meraviglioso, una roba viva, vera, non finta, non un quel, di quelle robe tutte improfumate. C'era una donna improfumata, mi ricordo, molto con un profumo molto bello, molto buono. E però meanwhile, nello stesso tempo, che poi non c'entra un cazzo in questo caso, era l'odore di formaggella. Senti, invece ti posso chiedere una cosa, perché io naturalmente durante il periodo del Covid non mi sono depilata, ma a te la donna con la gamba pelosa ti piace? Beh, con la gamba pelosa, la gamba pelosa no. Pure la gamba. No, ti piace la formazzella, non ti piace la gamba pelosa? Scusa, no, la gamba pelosa no. Mi piace, dai, mi piace un po'. Guarda, posso dirti, ora, la figa pelosa mi piace tantissimo. Preferisco quella del cane, guarda. Preferisco quella della gamba del cane. La figa pelosa, sì. Dai, non ti sei depilata. Adesso, vuol dire, hai il prato. La gamba pelosa no, però. Hai il prato folto. Hai sotto, hai un prato folto adesso? Hai un prato folto? Vabbè, diciamo che non mi sono depilata. Ma non stiamo a fare. Non mi stare a chiedere le cose intime. Ti sto dicendo, però, che le cose più intime di questo, le gambe, ma le gambe, le gambe no, le gambe, no, non le gambe sono non depilata, no, capito, le gambe gli no. Uomini piacciono, no, le gambe, cioè, pelose, tu c'hai le gambe pelose adesso, c'hai un po' di gambe pelose, sì, lunghissimi, non ho capito, il coso, e le ascelle? Le ascelle no, le depilo, però insomma ero tentata pure di non ma guarda non che le ascelle è il top, le ascelle è il top. Mamma mia, l'ascella pelosa, ogni tanto, non sempre, però lasciarsi per un po' l'ascella pelosa ti dà un senso globale. Di animalesco, che un senso globale. Di animalesco. Degrado globale. Scusami, una curiosità, ma la donna come vegana... Come andare ai giardinetti e trovare la donna vegana puzza di meno rispetto alla donna, diciamo, carnivora? Cioè, secondo te... Ma certo, perché chi mangia carne mangia cibo acidificante. Quindi quello che spelli anche col sudore è acido, cioè l'odore è acido. Cioè tu stai dicendo che le donne vegane profumano. E invece le donne che mangiano la carne puzzano di morto. Puzzano di morto, cioè, è la stessa cosa l'uomo, immagino. L'uomo vegano non ha un odore, no. Non ha quell'odore acre che c'ha un uomo che mangia carne, che mangia. Ma tanto a te non te lo posso chiedere, perché tanto l'odore dell'uomo te lo sei dimenticato, per cui non è quello il punto. Però basta, tu dici, basta la vicinanza. No, basta l'odore anche di una persona che c'hai accanto. Cioè, tu un carnivoro lo riconosci subito anche dall'odore, no? Cioè, immagino. Beh, diciamo che insomma, io quel carnivoro non lo guardo proprio, forse non hai capito. Cioè, se a me un uomo viene da me e mi dice: a me piace andare a mangiare la bistecca la domenica, io gli dico ciao, cioè, neanche ti considero. Non c'è proprio storia, capito? C'è un'incompatibilità di fondo. Il pesce? Ma il pesce è uguale. Ma uguale. È uguale. Che è successo con sto telefono? Che è successo? È uguale. Non esiste proprio, no. Scusami un attimo, quindi... l'altro giorno c'è una signora, una scrittrice che si chiama Viola, che ha detto che fa fatica a togliere le foglie di basilico, ti giuro, che possiamo fare il pesto senza ledere il diritto delle piante, che anche le piante devono avere la possibilità di difendersi, che quando cogliamo una pianta uccidiamo un essere vivente, ti giuro, quando cogliamo una pianta uccidiamo un essere vivente, e le piante hanno il diritto di... Ma adesso non mi dire che anche tu quando tagli... Dimmi tu che... Non è un oggetto, la pianta è un essere vivente, però qua bisogna fare una distinzione, cioè io non sono così drastica, però ti dico che la verità è che per esempio pure a me non piace, non mi piace cogliere fiori, cioè come non ti piace cogliere fiori? Le piante vanno ammirate e non colte, cioè, non capito. Tu toglieresti i fiori dal commercio, cioè i fiori secondo te andrebbero lasciati? I fiori decisi li toglierei dal commercio, scusa, ma che mi dici il senso di regalare delle rose che dopo tre giorni sono appassite, puttano, cioè, e le devi buttare? I fiorai, cioè, fosse per te, oltre ai macellai alla mia compagna, tutte le settimane i fioristi andrebbero chiusi, i fiorai andrebbero chiusi. Mi regali una pianta di rose che comunque sopravvive, che fiorisce tutti, un mazzo tutti di fiori, gli il classico mazzo di fiori, io tutte le settimane regalo mazzi di fiori sempre, allora, tutte le settimane. Tu ti comporti come un burattino, cioè tu fai tutto quello che fanno di solito. Ma non ho capito, ma tu le tutti chi? Tu pensa a un uomo che arriva con una pianta di rose, qualche donna che in ascolto ha mai ricevuto una pianta di rose come regalo. Ma ho capito, ma uno vuole regalare solo i fiori, non ho capito, perché tu non li taglieresti i fiori, i fiori non li taglieresti, non si devono tagliare i fiori. No, ma i fiori vanno ammirati, le piante vanno ammirate, non vanno tagliate, scusami, quando tagliano un albero, se tagliano un olivo... Ma che c'entra? Ma qualche volta serve tagliare, perché serve per il processo naturale delle cose. Ma che c'entra? Quello è perché tu lo voti e quindi certo ha bisogno di essere votato l'albero, però invece se tu vai là, lo tagli, lo recidi perché so, perché ti dà fastidio, cioè, ma quello no, ma quello che c'entra, quella è un'altra cosa. Io voglio, no, perché ci sono, voglio capire una cosa, ma certo, se cresce troppo l'albero lo tagli. Aspetta, ovvio, il COVID può distruggere. Fermo anche un attimo, il devo chiedere una cosa, no? Prima di lasciarla, il COVID ha eliminato il palio di Siena a giugno, a luglio e ad agosto, una cosa drammatica. Male. Ma che drammatica, questa è una delle tante cose positive del COVID, chiaramente. No, non si può dire una cosa, è una delle più grandi feste popolari italiane, una festa meravigliosa, una grande festa. Quale troglodite? Quelli lì, tu non sai un cazzo, il cavallo lo amano, è l'idolo vero del palio, è il cavallo più del Fantino, Somara, che non sei altra che un Somaro. Lo amano, il cavallo viene addirittura benedetto in chiesa, è l'eroe del palio. Ma quali condannati? La condanna al cervello c'hai, ma vergognati che non sai nulla di una delle più grandi tradizioni popolari italiane. Perché lui, io sono contrada d'oro della contrada dell'Aquila, peraltro. Ecco, guarda, ecco, sono battezzato della contrada dell'Aquila, certo. Ah, tu sei battezzato con mia figlia da 13 anni. Da 13 anni. Mia figlia ne ha 13, anche lei è contrada d'oro, certo, da sempre. Ma praticamente tu hai educato tua figlia. Certo, a certo, certo, quel spettacolo orribile. Uno non ho mai visto amare di più. Tu sai che i Fantini addirittura hanno i più importanti allevamenti di cavalli. Amano i cavalli. Ma che c'entra le denunce? Amano i cavalli. Le denunce di maltrattamento, le denunce di. Ma quale, tu hai il maltrattamento nella testa, purtroppo. Ma non ho capito, ma secondo te tu esulti perché a luglio ed agosto non ci sarà il palio? Sei contenta? Assolutamente sì, ma finalmente, ma io puntassero su altro. Finalmente cosa? Siena, no, non ti preoccupare, tanto ci sarà ancora, non ti preoccupare. Cioè speri che sparisca Siena per sempre, ma è impossibile. Qua, che insegnerà alle persone, ma insegnerà un cazzo, proprio niente insegnerà, ma non insegna proprio niente. Quelli amano i cavalli più di qualunque altro. L'eroe del palio è capito che sono assassini di cavallo, secondo te? Assassini dei cavalli, secondo te, quelli del palio? Ogni anno dobbiamo assistere a cavallo, è una tragedia per il senese, la morte di un cavallo è una tragedia, scema che non sei altro, che non sai nulla, è una tragedia. Voi, ma non c'avete altro che ma non hai mai, non sai neanche che cos'è. Cioè, dunque tu speri che dopo questi due anni, dopo questa stagione sparisca per sempre, la tua speranza è questa? Assolutamente, tanto perché ci farà capire che non serve assolutamente nulla. Ma che non serve, cosa non serve? Il palio è vita, è tradizione, il palio è vita, tradizione. No, è vita, vita, sai vita. Che, sai che vuol dire tradizione? Vuol dire rimanere legati a qualcosa che ormai è superato. C'è gente che piange, c'è gente che piange. Ma la tradizione, caro Cruciani e caro Ma che sono i civili? Ma che sono incivili? Ma che sono incivili quelli del palio? Che sono incivili? Che sono cavernicole incivili quelli del palio? Ma l'hai visto quando si menano i contraddaglioni tutti insieme? Ma è la passione vera che si menano, è la passione vera, è la passione per la tua città, per il tuo pezzo di città, per la tua contrada, è la passione vera quella che ti muove. Ma quale cavernicola? Dunque sono incivili, dunque sono incivili quelli del palio, che si bacia in bocca coi cani. Disse quella che si bacia in bocca coi cani. Ma non ancora, e insisti con la stronzata. Il ferimento di un cavallo è un dramma per il senese, per tutti i senesi, non solo per quelli della contrada, per tutti. Ma quale economico? L'amore vero per gli animali, altro che. Il palio è uno spettacolo. Ma non sai niente, ma non è uno spettacolo. Il palio vive 365 giorni l'anno. Il palio è tutti i giorni. Il palio, quello che tu chiami la corsa, avviene due volte l'anno, ma la vita nelle contrade avviene tutti i giorni dell'anno, no soltanto nei giorni del palio. Non sai niente, nulla. Ma ancora con le contrade stiamo a parlare di contratti. Ma quando è che si evolvono a Siena? Non ho capito. Ma chi è che se deve evolvere? Cosa vuol dire evolvere? Ma è completamente pazza. Ma ho capito, ma quando è che vi evolvete? A Roma abbiamo le contrate, a Milano c'hanno le contrate. Ma di che stiamo a parlare? Stai dipingendo questa città come un posto di bruti, di bruti retrogradi. Ma che sei matta? Di bruti. Stai dipingendo una città come un posto di... Guarda, Siena c'ha sicuramente un... Che un, c'ha? Ma Siena ha una natura meravigliosa, dei vigneti stupendi, dovrebbe puntare su quello, punto e basta. Punta sul vino, non rompere i coglioni agli animali, capito? Ciao, quello e basta. Ciao. Allora, Roberto da Milano, vai Roberto. Arriva una notizia positiva però dal fronte Ticino, ragazzi, Pare che queste regole assurde che chiedevano alcuni del distanziamento in fase di rapporto con le puttane, ripeto, riapriranno il 6 giugno, forse per gli italiani il 15, i bordelli del Ticino, non verranno applicate. Peraltro ci saranno altre regole, ma ce ne occuperemo moltissimo nei prossimi giorni di capire come i puttanieri italiani possano migrare e quando potranno migrare in Svizzera. Ma ragazzi, è un'economia che esiste. Roberto, dimmi. Pronto, buonasera, finalmente, signor Scrutani. Allora, io sono napoletano. Sì, beh, allora... Io la seguivo ai tempi del calcio, quando faceva Tiki Taka. Sì, vabbè, allora dimmi, No, è in verità... Non è che Tiki Taka è 100 anni fa, è finito a marzo, quando è finito il campionato. Non è che mi stava tanto simpatico, per ora mi sono ricreduto da quando ho scoperto la Zanzara. Vabbè, Roberto, dimmi, dai, forza. No, apposta. Questo sembra Michele Caruso, Michele Caruso, napoletano, ma residente a Milano. Vai, dimmi. Appunto. No, volevo dire, per quanto riguarda del decreto di Sala, il signor Sala, per le 19, fatto dei drink da sport. Che decreto ha fatto Sala? C'è un sindaco, decreto, non fa decreti. Non fa decreti, se mai fa delibere. Una delibera, dalle 19 non si possono sì, più per me è una follia. Se tu sei un gestore di bar, che sei? Sì. Amico mio, per me è una cazzata, è una puttanata inaudita, una stronzata. Non è assolutamente la movida, perché il ragazzo si va a comprare la vodka e la bottiglia di lemon soda nel pomeriggio in un supermercato per poi travasarla in altre bottigline e continua a fare tranquillamente la movida. Cioè, sì, comunque bloccare un po' questa cosa, regolarlo ci vuole, perché anche oggi purtroppo i contagi a Milano hanno conteggiato i dati di ieri di Bergamo, non c'entra un cazzo, non sai nulla. Le regioni d'Italia che fanno alzare la media nazionale, saremmo già fuori da questo disastro. Allora è giusto che le due regioni riaprano. Fermi tutti, è più pericoloso andare a Piacenza che andare a Sondrio. Dai, fermi tutti. La Zanzara. Lo dovevo fare a nome di tutti gli italiani! Che è vero che l'articolo 1, la Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, però stranamente i nostri padri costituenti, abbastanza sbadati, misero l'articolo 75 in cui è scritto che però il popolo non si deve occupare di accordi internazionali. Allora? In quel momento veniva sottratta la sovranità internazionale al popolo, che è l'unico sovrano. Nemmeno i padri costituenti potevano fare questo furto di sovranità. Allora? Tant'è vero che noi abbiamo denunciato i fatti alla Procura della Repubblica di Roma, dicendo anche di perseguire i padri costituenti che avevano fatto questa sottrazione aberrante. Ci hanno dato ragione. Ma questo è pazzo, sono morti i padri costituenti. Ma chi dice? Ma che è pazzo? Ha denunciato i padri costituenti. Un generale anche importante. Dei carabinieri. Beh, è stato un sindacalista importante. È stato un generale. Era uno ai vertici. Sì, questo dell'arma. Diciamo non depone bene per i carabinieri, posso dirti. No, appunto, questo purtroppo. Lo dico io. Ho grande stima dei carabinieri, non c'è dubbio. Ma dico, come è arrivato là? Ci hanno dato ragione. Senti questa cosa che ti renderà felice. Questa cosa qua ti renderà felice. Non abbiamo mezzi. Non abbiamo soldi. La televisione di Stato ci ignora totalmente. Noi vediamo in televisione qualche volta, quelle poche volte che le vedo, perché ho ben altro da fare. Quando un po' di tempo mi metto al pianoforte e compongo. Bene, la Mediaset, la 7, che ci ignorano totalmente, e bene, il 30 maggio. Il popolo è tutto con noi. Noi siamo in ben 27 piazze. La 7 ci ignora totalmente. Ma questo è un punto di vantaggio. Questo fa crescere ancora di più la reputation, come si dice, della rete, ovviamente. Ma anche per me, se devo dire, in questo caso, bisogna essere sinceri, ovviamente. Invitalo da Mario Giordano. Invitalo. Ma fallo invitare da Mario Giordano. Generale. Il giornalista esiste perché deve criticare il potere. Le faccio un esempio banale. Arrivano quelli della Zanzara, che sono nelle mani della Confindustria, e attaccano me. Sì. Io che c'entro? Ma no, è diverso. Perché attaccate a me che critico il governo? Infatti, io l'ho detto all'amico, ho detto: ma perché attacchi me? Telefona al presidente della Repubblica, no? Se hai coraggio, telefona al presidente del Consiglio e fai gli scherzi a lui. Se hai coraggio, quello è la vera natura della stampa. Ho capito, però papà, io non hai capito ancora la cosa, è che noi qui ti pigliamo un po' per il culo, amico mio, cioè non è che ti critichiamo, non c'è niente da criticare. Se uno dice che ha denunziato i padri costituenti, capisci che sono tutti morti, che peraltro sono morti, è quello, sì, il la maggior parte credo di sì dicendo anche di perseguire i padri costituenti che avevano fatto questa sottrazione. Ma cosa hai fatto? Aberrante. Ci hanno dato ragione. Ma chi ti ha dato ragione? Ma è con noi il transessuale più famoso di Puglia, una mia grande amica, una persona che ha anche una laurea triennale, caro Davide, non lo dimenticare mai. Una laurea triennale e anche un uccello notevole insieme alla laurea triennale. Sono due cose compatibili tra di loro, non incompatibili. Giusto, Alessia Nobile, eccoci qui. Laurea quinquennale comunque, non è triennale. Ah, hai la laurea quinquennale, non ho capito. Sì, un 3 più 2. Ah, un 3 più 2, benissimo. 3 più 2. Ogni tanto fai a qualche cliente, fai pure il 3 più 2, diciamo, no? Cioè, fai anche. Cos'è il 3 più 2? Nell'altro senso, cos'è? Dopo la 3 c'è una in omaggio. Dopo la terza c'è un primo. Ah, in quel senso. Allora, cara Alessia, voglio sapere da te, innanzitutto, come stai, se la vita procede bene, se questa fase post-lockdown è positiva, hai ripreso a vivere, hai ripreso a lavorare, come stai? Sì. Sto bene, ho ripreso a vivere, a ricevere. Dal 3 maggio io vado a ripasso col decreto, quindi con Conte. Quindi quando lui ha aperto, hai aperto anche tu, ho alzato la sala cinesca. Hai alzato la sala cinesca, hai aperto anche tu le caterate, diciamo. Hai aperto le caterate anche tu. Anche se la maggior parte delle volte sei molto attiva dal 18, ricevi molto dal 18, diciamo. Sì, dal 18 proprio sì. Ho ripreso alla cioè alla grande, i clienti si sono rifatti vivi alla grandissima. Cioè, si sono rifatti vivi loro e molta gente nuova. Ah, addirittura, come mai? Perché ovviamente post-Covid la gente vuole più attenzione, vuole più pulizia, vuole più servizi. Io li garantisco, quindi tutti quelli che andavano da altre li ho tutti assorbiti io. Vabbè, adesso questo bisogna vedere, adesso non gettiamo discredito sulle altre transessuali di Bari. No, sulle altre che magari ovviamente hanno ricevuto durante la quarantena. Però voglio dire, tu sei indubbiamente tra i leader, diciamo, delle transessuali baresi, non c'è dubbio, riconosciuta da tutti, non solo per non il tuo sono la migliore di tutti, sono diversa. Sei diversa, non c'è dubbio. Però assolutamente non voglio discriminare le altre. Però posso chiederti, cara Alessia, che tipo di clientela si è avvicinata in questi giorni? Cioè, tu di solito sei più attiva che passiva, diciamo la verità, cioè sono i passivi che si rivolgono a te. Mi hai detto una volta che addirittura un tizio ti ha dedicato un dipinto e poi si è fatto inchiappettare, o sbaglio? Io il primo giorno, il 18, il lunedì 18, ho avuto un dipinto, il mio ritratto di un cliente che è venuto, me l'ha regalato e poi abbiamo avuto ovviamente rapporto. Ecco. Mi hanno immaginata in quarantena. Ecco, ma questo rapporto con questo cliente com'è stato? Cioè, che tipo di rapporto è stato? Perché tu mi hai raccontato... È stato un rapporto diverso, perché lui ama comunque il travestitismo, ama il sadomasochismo, quindi una cosa un po' più particolare. Sadomaso tosto, non soft, sadomaso tosto. Io lo faccio soft. Ah, tu soft, ma lui come si è messo questo qua? Questo cliente qua come si è messo? Lui in genere si mette a centro stanza bendato e in ginocchio. Ah, bendato in ginocchio, diciamo. Ma come? Con una parrucca. Con una parrucca e come? Con un reggiseno, con un, delle calze? Sì, con un reggiseno, io fornisco tutto io. Ah, fornisce tutto tu. Io abbigliamento. Tutto fornisce tutto. Ecco perché come ti andare dico, in montagna. Quando tu le vai in montagna, dice ti diamo tutto quello che ti serve per fare l'arrampicata, lei fornisce tutto il resto. E se uno ha bisogno, Parenzo, se tu hai bisogno di una di un reggiseno, di una mutandina, di una reggicalze, se hai bisogno di un paio di scarpe coi tacchi, stai pur tranquillo, di una benda, di una parrucca, tutto il mio, per farti, come dire, sodomizzare l'Alessia Nobile, non ti preoccupare, stai tranquillo che la signora ha tutto il mio rispetto, ma non mi vedrà mai, stai tranquillo, ma con tutto rispetto. Ho istituito Lady on the Day, ogni lunedì c'è il Lady on the Day, donna per un giorno. Il lunedì io lo dedico esclusivamente a quelli che vogliono venire a casa e passare una giornata da donna, si vestono, si travestono, se vogliamo. Lady on the Day, l'ho istituito dal 18, cioè no, quindi, ogni lunedì Lady on the Day, cioè solamente maschi che si vogliono travestire da donna e farsi inchiappettare, fondamentalmente. Altre persone il lunedì lo dedico a loro, perché comunque sono molto, dopo il weekend passato in famiglia, sono molto più strizzati, quindi hanno bisogno un po' di svagarsi. Questo è interessante, quindi, come cosa, questo è interessante. Tu dici che dopo un weekend in famiglia i mariti hanno bisogno di farsi inchiappettare da Alessia Nobile, diciamola tutta, e di vivere la femminilità, perché molti amano travestirsi, indossare la parrucca, il reggiseno, abbigliamento da donna, tacchi, io c'ho tutto a casa, fornisco, possiamo anche uscire, faccio anche fuori casa, l'esterno. Ma perché qualcuno ti chiede di uscire? Travestiti, sì. Cioè qualcuno ti chiede di passeggiare così, passeggiare tranquillamente. Secondo te, scusi, per chi votano questi qui che le chiedono questo? Pensa poco, ci si sa l'orientamento di queste persone che si travestono. Ma lo capisco, ma lei mi conferma che spesso votano per partiti sovranisti, immagino, no? Mi conferma questo dato. Questi voteranno alcuni per il PD, voteranno alcuni per la Lega. Non so di che partito sono. Però se lei dovesse azzardare, più facile che votino per partiti sovranisti. Comunque andiamo avanti, va bene. No, ma è bello questo Lady on the Day, devo dire che mi entusiasma questa cosa. Cioè vengono solamente mariti o comunque persone che si fanno travestire dalla signora, ma questi amano anche farsi vestire da te o si mettono a reggiseno da soli? Questo è curioso. No, com'è? Alcuni li preparo io, altri li faccio accomodare in bagno e si gestiscono la loro, insomma. Altri portano anche lo zainetto con la parrucca, l'intimo, l'abbigliamento. Altri vengono con la torreggente sotto il pantalone, l'abito da uomo. C'è di tutto e di più. Sì, di tutto e di più, ma è una cosa abbastanza normale, dai ragazzi. Cioè non è così. Permetti? Cioè non è così. Non è così strano, tutto normale. Padri di famiglia, ma sì, ma è una variante. Padri di famiglia, gente che ha bambini a casa e che si vogliono sbagare una serata. Si travestono da donna e pigliano l'uccello nel culo. Ma qual è il problema? Ma che problema c'è? Dopo la quarantena sono arrivati. Ho dovuto veramente lavorare molto dopo la quarantena per farli riprendere. Erano distrutti questi uomini. La gente aveva fame di sesso. La gente aveva fame di sesso. Aveva fame di cazzo. Distrutti dalle donne, sì. Distrutti dalle loro donne con cui non scopano molto probabilmente, almeno questo sì, te lo raccontano, sì, no? Immagino, te lo raccontano. Me lo raccontano, ma loro hanno dovuto dormire sul divano molti di loro perché era ingestibile la situazione a letto con le proprie mogli di fianco, cioè di spalle a loro praticamente. Ma che età hanno in questi signori qua che vengono poi il lunedì in questo Lady on the Day? Che età hanno più o meno? Di tutto, cioè, dal 35enne over 40 soprattutto, diciamo, no? Over 40. Sì. Guarda, il tipo che mi ha regalato il dipinto che ho abitualmente questo tipo di rapporto, c'ha 71 anni. Ah, 71 anni. Questo qua ha 71 anni, ma sposato? È nonno. Ah, è nonno. Viene da te. E che pratiche fa, diciamo, da te? Si fa inculare? Con lui ho fatto parecchie esterne. Pare ed è proprio con lui che è nata l'idea di fare il Lady on the Day, proprio per dare la possibilità a tutti. Ah, questo, ma la moglie non sa niente? La moglie assolutissimamente, lui è felicissimo con la moglie, è nonno felice, porta i nipotini a spasso, spesso l'ho anche incontrato, mi ha fatto l'occhiolino, abbiamo un rapporto veramente questo qua fantastico. Viene da te, si fa diciamo agghindare, si traveste e dopo tu sostanzialmente c'è sodomizzazione o no? Soft, io sono molto soft perché diciamo soft, che vuol dire soft? Non capisco, la penetrazione, la penetrazione è sempre penetrazione, amica mia, non è che può essere... avevo capito altro. No, la penetrazione sì, è normale, tranquilla. Sì, che lo penetro, ovvio. Penetrazione, ma poi quella diciamo è normale. No, diciamo, vabbè, c'è magari scritto i capezzoli. Invece questo qua? La pacca sul sedere, sì, io lo faccio, ma in maniera soft. Cioè non sono molto... Non è sadomaso, non è sadomaso, diciamo. È sadomaso soft. Sadomaso soft. Soft. Questo 71enne nonno, sono molto interessato alla cosa del 71enne nonno. E caro Prezzo, pensa se tuo nonno facesse una cosa di questo tipo, diciamo. Io non so se c'è ancora i nonni. Per fortuna, purtroppo non ci sono più, ma se sentissero queste porcherie di una... Comunque, se uno vuol fare quella roba lì, faccia pure quello. Ma io poi non sono bacchettone. Se mi dici se dovesse capitare nella mia famiglia, sarebbe un dramma, ma è un problema mio, per carità. Sono io anormale. Devi aprire un po' la mentalità. Però posso dirti: il nonno fa il nonno. A una certa età il nonno fa il nonno. Il nonno porta i bambini al parco, il nonno sta con la nonna, il nonno mangia il gelato, porta i bambini a mangiare il gelato. Non si traveste da nonna, da donna, il nonno. Questo è una settimana, non ho nessun vizio, lo sfizio tuo me lo tolgo una volta a settimana, fallo travestire da donna, cosa vuoi che ti dica? Si fa inchiappettare, si fa dare qualche sculacciata, poi che altre cose fa? Che altri clienti particolari hai avuto in questa settimana da raccontarci, Alessia? Diciamo che più o meno questo, perché questo è stato quello, diciamo, più di questo, sì. Cosa vuoi fare più questo di questo? Il classico cliente uomo passivo che viene ovviamente per viversi un rapporto totalmente passivo, totalmente anale, diciamo. Io fornisco mascherina, fornisco guanti in lattice, ho tutto il mio kit, però che ci fai lì? Cioè tu, non ho capito, queste persone qua non le baci mai in questo periodo? Dal 18 ti ho detto che ho alleggerito un po' le restrizioni. Sì, prima forza, dal 3 al 18 ho incontrato con guanti in lattice, mascherina, distanza. Poi ho legato ad un fallo di plastica un'asta. Anziché penetrare dal 3 al 18, cosa facevi? Cioè, penetravi solamente col fallo di plastica a distanza, non ho capito. Con la scopa, ho attaccato il pene. Gliel'hanno consigliata loro. Certo, non volevano il contatto diretto per paura del Covid. Dal 18 il pisello originale, diciamo. L'originale. Va bene, Alessia, ti abbraccio, a presto. Abbiamo detto tutto, mi pare. Ciao, un bacio, ragazzi. Arrivederci, caro. Beh, adesso la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. E questo strumento deve diventare come una cravatta, un foulard, una collanina, un braccialetto, un piercing. Auf, credi che questa mia non sia poesia? Guarda i prodigi della mia malinconia. Sarò la sintesi del delirio dei matti. Ciao ragazzi, Longoni mi ha detto che quando c'è lui riesco a chiamare. Auf, bolgiati critici osannati. Parenzo, è anche grazie a te, quelli come te, che ho ricominciato a drogarmi. Non ne posso più di sentire le cazzate che dite. Voi massoni, infami, stupidi. L'alata dei rifiuti. Voi lombardi dovete restare confinati nella vostra regione di merda e tutti i test farmacologici che il governo vuole fare deve farli su di voi. Siete una massa di viziosi, tossici e culattoni e come avete generato l'HIV, ora avete generato il coronavirus. Nicolas mi dice la canna da pesca infilala nel culo. È una sintassi di parole seducenti. Siccome un generale dei carabinieri tutti mi ritengono guerrafondaio, invece no, ma che c'è? Il progetto mio politico prevede un'Italia della pace dove l'esercito viene ridotto ai minimi termini e dove a un certo punto l'Italia diverrà un grande giardino ecologico. Cosa? Senti questa contro i vaccini, senti. Addirittura vogliono vaccinare tutti quanti. Ma stiamo a scherzare, queste case farmaceutiche. Un mio collega, grande investigatore, mi ha detto la più grande indagine che faremo noi carabinieri sarà quando finalmente il governo ci autorizzerà a indagare sulle case farmaceutiche. Non ti dico quello che verrà fuori. Altro che Totorrina, la mafia, la camorra e l'andrangheta. Non sono niente rispetto non ai miliardi, ai bilioni di dollari che questi signori che guadagnano. Cioè, sta dicendo che le case farmaceutiche sono peggio della mafia, cioè, signor Pappalardo. Ma signor io non lo Pappalardo. So, no. Allora, Berto da Venezia, poi una grande sorpresa perché qui si rimette in moto tutto, caro Parenzo: i bordelli svizzera, la prostituzione delle single, la prostituzione delle single, cioè delle però persone. Anche altre attività, diciamolo, sì, bar, ristoranti, panetterie. Però, se no, dai, per chi diciamo non conosce questa trasmissione, magari viene era ibernato per anni, accende e sente la tua descrizione, sembra che ci siano soltanto quelle cose lì che riprendono. Invece ma no, non è vero, cioè queste sono attività economiche fondamentali che riprendono e che spesso vengono trascurate, ma sono una parte importante del PIL, oltre che del PIL. Berto, dimmi. Beh, certo, assolutamente. Berto, dimmi. Berto, questo sta parlando con la moglie, pensa, oggettivamente credo che sia un'oretta che è in collegamento con noi, però Berto, che sta raccontando la moglie questa? Berto! Questa può essere qualificata come intercettazione telefonica, però l'ha fatta lui. Berto, eccomi qui, Berto, dimmi. Ciao. Dimmi. Scusami, Berto, dall'attesa. No, beh, tranquillo. Tanto c'è un cazzo da fare. Dimmi, Berto. Infatti, no, certo. Dimmi. Se lei avesse da fare, non chiamerebbe la Zanzara. Io guardi, bravo. Tanto denigra tutti lui. Sì, attacco, vai all'attacco, Berto, vai all'attacco. Non mollare l'osso, però. No, guarda, parlavo proprio di così panzironi che io lo seguo in parti. In parte certo. Diciamo cioè sei un paziente, Panzironi. Sei un paziente. Lei segue Panzironi. Non sono questo proprio il primo Panzironi dipendente. Ecco, diciamo ti questo. Sei fatto curare da Panzironi, ti sei fatto consigliare da Panzironi, sì o no? Io ho letto il suo libro e tante cose e ho riscontrato, secondo me. E questo che è il primo elemento interessante della telefonata. Quindi abbiamo un ascoltatore della Zanzara che chiama, sì, abbiamo un personaggio così che ascolta la Zanzara, telefona, quindi corrisponde all'identikit perfetto. Toglierei praticamente che dichiara di aver letto il libro di Panzironi e di seguirlo. Le posso chiedere anche per chi ha votato le elezioni? Lei che segue Panzironi, posso chiederglielo per chi ha votato? Qua sbagli. Sentiamo perché. Dimmi Berta. Allora, che vuoi dire? Alla fine non è che c'entra tanto. Il discorso è che diciamo Panzironi Panzana ha detto sì, assolutamente. Il fatto confermo. È che non so se ha mai ascoltato le trasmissioni perché a livello veramente integralmente no, ma insomma tu sei mi sembra uno che un fan medico, di Panzironi. Sì, dico a livello scientifico medico il dottor Panzironi, cioè che dottor, non è medico peraltro, quindi non importa. È un giornalista scientifico. Vabbè, però allora? ha tenuto testa a molti dottori. Dunque tu stai dicendo tuo Parenzo, tu come lo consideri questo Berto, uno che è stato come dire completamente soggiogato da per avere il quadro di questa persona, il fatto stesso che abbia chiamato è già per me un elemento per avere già una parte del quadro della situazione. Quello che c'entra. Chiama la Zanzara, già questo a me basta per dare un piccolo giudizio. Ma in più ha subito detto che legge i libri di Panzironi anziché leggersi, ma non dico Dostoevskij, non dico i grandi classici della letteratura, non dico M. di Scurati. E dunque il quadro è drammatico, dici il quadro è drammatico per il libro che legge, dice che si fa curare con la cura Panzironi che non è medico. Dici. Io non ho altro da aggiungere. Cosa ciao Alberto, ci sentiamo la prossima volta. Ciao. Allora, le prostitute tedesche, ragazzi, scrivono al Parlamento: fateci tornare a lavorare. C'è un grande fermento in tutta Europa e io lo comprendo. Figlio. Abbiamo in collegamento Augusto Pistilli, che è uno scambista ed è presidente dell'associazione pure che si chiama AssoSex. A concludere la giornata in maniera trionfale. Ma cos'è AssoSex? Ma cos'è AssoSex? Augusto, come stai, Augusto? Caro Augusto. Sto bene, tempi duri per gli scambisti e libertiti. Ma scusa, cos'è questo sindacato degli scambisti? Che roba è? Ma non ho capito, perché non ho capito, uno non può avere l'associazione degli scambisti. Ma ti pare che esista il sindacato? Ma siete pazzi? Ma che è l'associazione presidente di AssoSex, un'associazione che presidente, ma è presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Costruttori Italiani, la presidente dell'ANCI. Sì, ma l'AssoSex si riunisce gente che si vuole divertire. Ogni tanto organizzano delle grandi oggi, ma purtroppo non si possono fare. Associazione scambisti. Ma certo, assolutamente. Cioè, a me già questo sconvolge. Cioè, esiste un'associazione di scambisti e esiste anche un presidente di un'associazione, che vuol dire esiste uno e statuto. E si chiama Augusto esempio. Pistilli, che a sua volta è scambista. Qua è, che c'è Parenzo, di male? Sei un fenomeno, Parenzo, sei un fenomeno. Sei scusami, un fenomeno. Augusto, come sta andando? Io sono basito. Si riprendono questo. Le attività o no? Dammi una. Sì, riprendiamo le attività, perché male, abbiamo, diciamo, pazzo. Attraverso il nostro network delle relazioni e gli specialisti che abbiamo intorno che ci vogliono bene, e allora? Abbiamo diciamo creato, a prescindere quello che è un ragionamento che adesso, quando lo farò anche con voi, vedrete che in qualche maniera non sarete sconvolti, ma sarete, diciamo, di parere favorevole. Ecco. Allora, noi che cosa abbiamo studiato? Perché all'interno delle nostre sedi si sa, il contatto è una cosa interessante, importante, per potersi relazionare con desideri, fantasie e quant'altro. Allora, che cosa abbiamo studiato? Un presidio sanitario prima della hall dell'entrata. Benissimo, molto strutture. Interessante questa cosa qua. Dunque, riunione di scambisti, mettiamo in un albergo e voi mettete un presidio sanitario lì. Benissimo. Nel presidio si fa il test rapido. I negativi hanno possibilità quindi di entrare e di fare feste e fasti come sempre. Di scopare, diciamo la verità, toccarsi, avere rapporti, mogli e mariti che si scambiano, quello che uno vuole, anche nulla, anche solo guardare. La libertà individuale, lo sai, a 360 gradi ricopre un po' tutte quelle che sono Però presidio sanitario all'ingresso. Presidio sanitario all'ingresso, che poi tra le altre cose diventa un aspetto socialmente utile, perché lì facciamo le cose sempre con trasparenza, serietà e impegno. Sì, sempre trasparenza, storia, serietà, Parenzo, come, sì. come la nostra storia. Quindi che cosa succederà? Poi? Che ci sarà una raccolta dati per sesso, per età e quant'altro, quindi daremo anche una mano, tra virgolette, alla parte scientifica, perché diciamo per mese e per trimestre. Sì, ma quando si riapre la come dire, il circo? I primi di giugno. Cioè, non ho capito, già vi riunite voi di questa associazione di scambisti, vi riunirete all'inizio di giugno da qualche parte? Sì. Diciamo che ripartono proprio i nostri club con le attività che da una parte riapro i vostri club, riapro i vostri club. Avete fatto anche un tavolo con il governo? Cosa avete fatto? Un tavolo con il governo? Il 22 di maggio l'assemblea dei presidenti delegati italiani si è riunita sia come persone fisiche che con Google Meet, e abbiamo dato diciamo il voto al protocollo, che è molto serio, molto diciamo. Sì, ma il protocollo dentro. Ma che protocollo devi fare? Che roba è un protocollo? Collo, l'assemblea, l'incontro col governo, ma che dite? È il presidente di un'associazione incredibile di scambisti, non è l'Associazione Nazionale Costruttori Italiani, non è la CNA, non è la Coldiretti e la Confagricoltura. Aspetta, Pistilli. Bravo, Pistilli, io voglio capire una cosa. Che cosa è previsto però come tipo di... Cioè, ognuno poi dentro può fare il cazzo che vuole, al di là del presidio medico. Non è che si può scopare, come dicono in Svizzera, che forse si potrà scopare solo a pecorina per mantenere una distanza. No, si potrà proprio scopare, perché c'è un certo punto quando allora, se all'interno di una struttura ci sono tutte persone negative, cioè perché dal test risultano tali, i test sono attendibili per forza, sono negativi, fanno scambio, cosa vuol dire? Per forza sono negativissimo, sulla positività, significa che abbiamo una situazione dove all'interno ci sono tutte persone come un nucleo, qualsiasi nucleo che si riunisce, e dunque alla fine la novità è solo i presidi sanitari all'ingresso, cioè metterete certo, ma non è una novità da poco, perché ci vuole ma no, per carità, assolutamente, voi dovete mettere anche i quattrini naturalmente, cioè i club scambisti che sono associati a voi praticamente, e le riunioni che fate, le feste che fate, avranno un presidio sanitario all'ingresso, cioè gli scambisti verranno monitorati, caro Parenzo, verranno in qualche modo inquadrati e potranno entrare nelle strutture solamente quelli che risultano negativi a un test rapido. Questo è, mi sembra fondamentale. Anche gli scambisti danno un contributo al benessere, alla sanità e alla... Considera che tutti i presidenti delle strutture, i soci delegati in quant'altro, si sono assunti una responsabilità non da poco. Ma come presidente di struttura? Anche l'aspetto della sostenibilità. Scusi Pistilli, ma nella sua associazione mi sembra che sia membro anche la signora Anna Ciriani, se non sbaglio. Assolutamente sì. La famosa porno prof, mi sembra, no? Certo, certo. Lui si occupa anche della parte della cultura, perché scusami, spiega un po', Parenzo, che tua moglie, che sì, dalla parte della cultura. La cultura. La cultura. Certo. La cultura. C'è un premio letterario. Fanno un premio letterario. Scusate. Un premio letterario. Hanno un premio letterario. Ma io dico, ma a me va bene tutto, ma esistono gli scambisti, evviva, sono sempre esistiti. Adesso si costituiscono in associazione e c'è pure una di scambisti che si occupa della cultura. Ma di che parlate? Certo. Ma certo, ma hanno istituito un premio letterario che si chiama La Dolcetta d'Oro. La Dolcetta d'Oro, la riproponiamo, premio che letterario. Tra le altre cose per lui è un momento. Scusi, signor Pistilli, voglio capire, può ripetere a Parenzo che lei tranquillamente, con grande piacere, si fa scopare la moglie davanti agli altri? No, perché tanto per inquadrare la situazione. No, certo, lo dica a Parenzo, lo ribadisca a Parenzo. Il momento di massima estasi da parte mia. Sì. È il momento quando vedo la mia compagna che gode e va veramente fuori di testa in quel momento. Capito, è lì che si accende la mia eccitazione. Caro Parenzo, avrei vergogna per andare. Che vivere, no, ma bravo, che difficile. Bravo. Io avrei vergogna a raccontare una cosa simile. Cioè, mi sentirei comunque, per carità. Posso dire una cosa? Anche presidente, sua moglie pratica anche insieme ad altri partner, pratica anche delle gang bang. Immagino, no? Sì, anche amante delle gang bang sua moglie o no? Non è una che le ama tutte le sere, però sai, l'istinto, la parte cerebrale a volte la coinvolgono anche in queste cose. Per cui a lei piace sua moglie circondata da diversi cazzi, diciamoci. Certo, le posso chiedere per chi ha votato. Le donne, tra le altre cose, amano molto le misure, anche se a volte non lo dicono. Le posso chiedere lei per chi ha votato storicamente il suo... Io di verità già l'ho detto in qualche altra vostra ho votato per il nuovo, però il nuovo vedo che stanno anche cercando di fare qualcosa per i 5 Stelle, però ci stanno provando non ho altre domande. Mi scusi, la sua pratica diciamo più la sua pratica preferita come scambista è quella del cook, cioè quella dell'osservazione oppure della partecipazione, diciamo? Questo no, della partecipazione però anche l'altra è una parte molto praticata e quindi sì, star lì a guardare mentre la moglie si diverte è incredibile. Poi dire sono amato io, comunque guarda che succede anche il contrario, però succede il contrario. Io voglio dire, se vi divertite così, non sarà tantissimo quando magari mi circondato da belle donne che amano. Cosa le devo dire? Siete una bella famiglia, che le devo dire? Certo, assolutamente. Ma guarda che ci sono i signori della Confindustria che sono degli amanti dello scambismo, caro Parenzo. Ma per carità, ma non essere, non bestemmia. Ma voi avete anche figli per caso? Certo. Certo. Figli tra le altre cose, figli che diciamo non vivono la nostra stessa realtà, perché ma la conoscono adesso, però questa realtà la conoscono. Certo che la conoscono perfettamente, sanno che i genitori vanno nei club scambisti ad assaporare i piaceri del sesso, ma qual è il problema? Dov'è il problema? Ma sono addirittura tre ragazzi che sono fenomenali per quello che hanno fatto nella vita, perché evidentemente che cosa dicono di questa cosa dei genitori? Niente. Ma allora, intanto, come sono stati educati per vivere quella che è la normalità, sono stati anche educati a vivere una sessualità aperta. E dunque anche loro sono portati. Sono molto rispettosi più che portati, perché io li vedo che anche con la ragazzetta che portano, due sono sposati già e l'altro c'ha la ragazzetta. Sono scambisti pure loro, no? No. Ma dire che sono scambisti frequentatori non lo so, perché io non glielo però insomma questi ambienti li conosco da quando sono ragazzini. Capito, Parenzo. Immagina tu con i tuoi figli che frequentano pure ambienti scambisti. Ma per carità, Pistilli, ti abbraccio, avanti tutta, si ricomincia, avanti tutta, italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sono Giuseppe Cruciani, io resto in Italia.